Allora, immaginiamo di andare davanti a un cancello elettrico e io ti chiedo, beh, aprilo con le tue mani e tu proverai ad aprirlo e non ci riesci perché il cancello è praticamente bloccato e poi pesa molto. Io posso mettere una mano in tasca, essere a 10 metri di distanza, anche 20, e in un attimo il cancello si apre. Ho messo una mano in tasca dove c'era il telecomando, ho premuto alcuni grammi sul tasto e il cancello si è aperto. Ora, questa distinzione tra la forza materiale, quella che dobbiamo metterci, e l'informazione è ben espressa da questa metafora. Spesso nella vita mettiamo tantissime energie per aprire un cancello che si può aprire semplicemente premendo un tasto. E quindi la vita pare faticosa, difficile, tutta in salita. Ora, la crescita spirituale significa passare dal voler aprire il cancello con le proprie forze, con le proprie mani, a invece sviluppare consapevolezza. La consapevolezza è ciò che consente a noi di agire senza forza, semplicemente tenendo conto di come stanno le cose. Se quello è un cancello elettrico, bisogna schiacciare il pulsante. Che cos'è Dio? Oggi c'è una battaglia su questo tema, fino a qualche secolo fa non era immaginabile il mondo senza la presenza di Dio. Oggi il mondo può esistere benissimo senza Dio, non può esistere senza carte di credito, senza denaro, ma Dio è del tutto superfluo oggi. Dio è morto, come diceva Nietzsche il secolo scorso. Ma questo, da un certo punto di vista, questo da un certo punto di vista è una fortuna. Nel senso che l'idea di Dio era talmente confusiva che aveva portato a risultati contrapposti a quelli dichiarati. Anziché portare l'amore nel mondo, spesso ha portato solo delle guerre. Diamo una definizione moderna di Dio. Dio è l'unità di tutte le cose. Il divino in noi è quello stato mentale nel quale comprendiamo la connessione tra tutte le cose. Quindi comprendiamo che io sono te, te sei me, io sono la bambina stuprata, ma sono anche il pirata che l'ha stuprata. Questo insegnamento è molto difficile oggi, perché siamo abituati a separare. La scienza procede per separazioni, vediamo solo le discipline, i sistemi immunitari studiati in un modo, il sistema endocrino in un altro, ci sono specialisti diversi, c'è una frammentazione del sapere. La frammentazione del sapere porta, della conoscenza porta a una frammentazione del conoscente. Come dice Panica, quindi abbiamo un cervello diviso. Un cervello diviso è un cervello in cui il principio divino non opera più. Per far operare il principio divino occorre non separare, ma distinguere. Discernere è importante, separare è demoniaco. Diaballen significa separare. Symbalein vuol dire unire. Dio è il simbolo dei simboli, cioè è il simbolo dell'unità di tutte le cose. Dirò due parole adesso del nostro processo evolutivo della conoscenza, cioè la psicologia genetica della conoscenza. Il bambino nasce avendo un senso, sentendosi come unito al tutto, alla madre, non distingue, questa è un po' la psicologia, ce lo dice da sempre. Poi impara a operare una separazione tra ciò che è buono e ciò che non è buono. È la posizione che Melanie Klein indica come schizzo paranoide. Schizzo fa, divide buono da cattivo e paranoide proietta il cattivo fuori di sé. Melanie Klein parla di paranoide perché dice che sono impulsi aggressivi del bambino che il bambino proietta fuori. Vabbè. Ogni volta che parliamo di paranoide, quindi dovremmo sempre aggiungerci, almeno implicitamente, dentro di noi il termine schizzo, cioè non posso essere paranoide se non anche preceduto per separazione. Separo il buono dal cattivo, il giusto dal sbagliato, il vero dal falso e poi mi identifico nel buono e espello fuori il cattivo. Questa operazione che il bambino compie tra i 4 e i 6 mesi è un'operazione che compiono spesso i leader che guidano i paesi del mondo. Non c'è nessuna garanzia che i magistrati, i capi d'azienda non operino secondo questa visione. Abbiamo creato un'economia che in gran parte rispecchia questo principio. La competizione così agguerrita indica come si è perso il senso di unità e quindi il senso del divino, al senso che tutte le cose sono interconnesse. Posizione successiva, a 6 mesi, il bambino sviluppa la posizione depressiva, quando si accorge che non c'è separazione tra buono e cattivo, che la mamma non c'è una mamma buona e una mamma cattiva, ma che è sempre la stessa persona. Allora perché è depressiva? Perché perde il sogno che esista una cosa che è totalmente buona. Ora, se questo è vero nella psicologia dell'infanzia, però noi vediamo che tutti i giorni la riscontriamo negli adulti, compresi gli intellettuali, compresi coloro che insegnano all'università, coloro che scrivono libri di filosofia. Le religioni hanno come compito dichiarato quello di portare il divino nel mondo, cioè il senso di unità. Se però le vediamo nella pratica, che cosa fanno? Vediamo che, per esempio, le religioni abramitiche si sono divise. Gli ebrei si sono sempre combattuti con i cristiani con i musulmani. Quindi ci deve essere qualcosa di profondamente sbagliato nel modo di intendere queste religioni, se no non dovrebbe succedere questo. E in effetti nella religione giudaica-cristiana c'è qualcosa di profondamente sbagliato, che è la netta distinzione tra bene e male, e quindi nel senso di colpa e indegnità. Ora, il bene e il male sono totalmente uniti, sono inseparabili e in realtà sono categorie che sarebbe meglio non usare più. Per gli animali non usiamo bene e male, non è che un leone fa compie una buona azione, una cattiva azione, non pensiamo alla violenza. Noi esseri umani siamo subito pronti a dare dei giudizi, giudizi morali. Ora, il giudizio morale è normale nella pratica giudaico-cristiana, in altre civiltà non è così. Ad esempio nel modello buddista non si parla di colpa, ma si parla di ignoranza, che è una cosa completamente diversa. Si distingue, ad esempio, nel buddismo Zen tra piccola e grande mente. La piccola mente ha una piccola visione, vede le cose piccole, quindi separa. E separando giudica. La grande mente non separa, vede l'interconnessione di tutte le cose e quindi non giudica. Questa posizione, a mio avviso, è una posizione molto più sana di quella portata dalla nostra cultura, che ha basi giudaico-cristiane. Cosa ci vorrebbe oggi? Ci vorrebbe che ce la smettessimo di identificarci in una cultura specifica e cominciassimo a vedere ciò che c'è di essenziale nelle diverse culture che possono contribuire a sciogliere la sofferenza umana. Questo sarebbe un passaggio molto importante. Non a caso, ripeto, Panikkar aveva parlato della necessità di una moratoria su Dio. Cosa vuol dire? Che l'inflazione che si è fatta del pensiero, del concetto di Dio è talmente grave ormai, è talmente inquinata, che sarebbe meglio non usare più questo termine.